Europa 24. Cari amici e cari ascoltatori di Radio 24, un saluto da Gigi Donelli. Dunque, la pagina europea oggi riparte da un promemoria, in realtà, perché oggi è infatti il giorno del primo faccia a faccia televisivo vero, nello stesso studio intendiamo, a poco più di 2 settimane dal referendum sull'UE in Gran Bretagna. Insomma, il tema della Brexit, come sapete, 23 di giugno racconteremo, seguiremo. Ma intanto la sfida, dunque, sugli schermi di TV è tra il premier conservatore David Cameron, dunque capofila dei pro-EU adesso, malgrado le divisioni del partito, malgrado le sue scelte di fare il referendum, e dall'altra parte il leader invece molto convinto e senza cedimenti di sorta degli euroscettici storici di UKIP, Nigel Farage. Cameron insiste ancora in queste ore sui contraccolpi che un eventuale Brexit potrebbe causare all'economia britannica. Intanto i sondaggi ormai da qualche giorno danno il leave davanti al stay, al remain, anzi, per essere precisi, visto che i britannici si troveranno di fronte nella giornata del 23, giovedì 23, la scelta dove mettere una X tra remain e leave, quindi rimanere o andarsene. Faccia a faccia, di sicuro domani avremo modo di tornarci sopra. Altro tema, il rapporto tra numero di migranti e popolazione è analogo negli Stati Uniti e in Europa, intorno allo 0,3%, ma la percentuale di cittadini di paesi terzi è solo il 4% delle persone in età lavorativa nell'Unione, nettamente inferiore a quella americana. Insomma, sono dei numeri che vengono presentati nel giorno in cui si mette a punto un altro tassello di quel compact, di quell'insieme di norme per il coordinamento sulla migrazione, di cui e per il quale sono previste, è previsto un vertice a fine mese. E sempre su questi numeri, solo il 30% dei migranti accolti nell'Unione Europea ha un livello di istruzione elevato, mentre quelli con il livello basso sono il 47%, 10 punti percentuali rispetto in più rispetto al 2000, quindi un cambiamento delle persone che arrivano in Europa, che chiedono appunto di vivere e lavorare nell'Unione Europea. Altro tema ancora, e ci porta invece in Francia, ormai vigilia imminente di europei di calcio, ovviamente Francia 2016, il presidente François Hollande, lapsus storico, stavo dicendo Mitterrand, ovviamente François Hollande dice: ci sono momenti in cui bisogna saper fermare uno sciopero, e cita tra l'altro una celebre frase del segretario del Partito Comunista Francese, Maurice Thorez. Thorez, quindi, grande leader comunista e sindacale, che a suo tempo si spese per fermare gli scioperi quando questo danneggiavano la collettività. Bene, a pochi giorni dal fischio d'inizio degli europei di calcio, Hollande afferma che gli scioperi contro la riforma del lavoro causano disagi ai connazionali, danno un'immagine della Francia che non è conforme alla realtà. La Francia, dice, è la prima destinazione turistica al mondo. Insomma, preoccupazione che si aggiunge naturalmente al grande tema della sicurezza, almeno sul fronte degli scioperi. Hollande dunque si rivolge alla sua popolazione con un appello, ma il punto sulla situazione, ormai a una manciata di ore davvero dal calcio d'inizio, lo sentiamo in questo servizio. 19 agosto 1985. A questa data risale l'ultima normativa europea in materia di sicurezza nelle manifestazioni sportive. Un documento firmato a pochi giorni dalla strage dello stadio Heysel di Bruxelles, in cui persero la vita 39 persone, è considerato ormai datato. Ecco perché dal 3 luglio sarà sostituito da una nuova convenzione del Consiglio d'Europa. Sarà firmata da tutti gli stati membri prima del calcio d'inizio del quarto di finale in programma allo Stade de France di Parigi, e ruoterà attorno al concetto chiave della collaborazione tra le diverse polizie nazionali. Facilitare lo scambio di informazioni per prevenire atti di violenza, quindi, ma non solo, informare adeguatamente residenti e negozianti, elaborare con largo anticipo piani di emergenza e di controllo delle folle, e soprattutto imporre una volta per tutte quegli standard strutturali degli impianti di cui si parla da decenni. A 3 giorni dal fischio d'inizio di Francia-Romania, che alzerà il sipario sugli europei, si mettono a punto le ultime misure. Ai 90.000 agenti promessi dal presidente francese François Hollande si aggiungeranno 200 poliziotti dei 28 28 paesi dell'Unione Europea, coordinati dall'Europol. Un dispiegamento di forze senza precedenti per una manifestazione sportiva. Hollande si ostina a ripetere che si tratterà di una grande festa popolare, ma l'allerta resta altissima. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. Naturalmente tutti gli aggiornamenti sull'Europa e non solo nei nostri giornali radio. Noi torniamo questa sera con lo spazio europeo all'interno di Effetto Notte e invece ci risentiamo domani alla stessa ora. Un saluto. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.